modella degli agitatori. Intratteneva i suoi elettori gridando pane e l'amore. Ora ghindato e pulito lo segnano al dito, guardatelo là. Con eleganza e dignità, che senso di serietà, l'onorevole Tricolle, deputato di Gioia del Colle, col suo bianco di le eleghette che ti farà molto parlare di sé. Dantite deputato, ed ognun riverito e ossequiato, onorevole qua, onorevole là, è davvero una celebrità. Alla camera quando si udienza con grande imponenza a Roma il divà, poi nell'aula pianino pianino si fa un titolino e tira a cantare. L'onorevole Tricolle, deputato di Gioia del Colle, eccellenza di qua, eccellenza di là, un bel di senator ti verrà. Nonno è un genio tutt'altro, ma è furbo, ma è scaltro, il suo fatto lo sa. In tre parole il programma è qua, pace, lavoro, libertà. Da quando eletto è felice, ha trovato la pace e la libertà. E per la massa degli elettori ha riservato il lavoro, l'onorevole Tricolle, deputato di Gioia del Colle, col suo bianco di le eleghette che ti farà molto parlare di sé. Dopo il dì che è deputato, ed ognun riverito e ossequiato, onorevole qua, onorevole là, è davvero una celebrità. Alla camera ieri ha parlato, ma è stato fischiato dall'opposizione. Un alterco si è subito acceso e Tricolle si è preso le iate e ceffoni. L'onorevole Tricolle,